mondo, 74esima trasmissione dedicata agli emigrati. Vecchi e nuovi motivi friulani. Luci e profumi del Friuli in queste musiche che seguono, armonizzandoli, vecchi motivi di canti popolari friulani. In questo componimento popolare dal titolo Io so istade a confessarmi, la sobria bellezza della villotta è ispirata al sentimento dell'amore che si fa sogno e desiderio di futuro matrimonio. Canta Carlo Catalano. Io so istade a confessarmi al mio solito confessore, lui mi ha detto mi mariti, io ci credi dal Signor, la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Benedete che sornate, a mi metto a vere man, la la, tra la la la la la la la, tra la la la la la la la la la. Benedete che tornate, cal, mi metto a vere man. State a confessarmi al mio solito confessore, lui mi ha detto mi mariti, io ci predi dal Signor, la la, tra la la la la la la la, tra la la la la la la la la la, lui mi ha detto mi mariti, io ci predi dal Signor. Ed eccovi il vecchio scanzonato motivo di Tiriti su uninine, che i giovani cantavano alla loro bella dalle sottane lunghe sino ai piedi. La voce è di Bruno Rossi. Tiriti su uninine, che potulenti bagne, l'amore al di compagne, non sta di nini. La città più giovi, sai che tu ma dei, sto val che tu mi prei, stai voi di pallador. Tiriti su uninine, con tu le ti bagni, lavora di compagni, non sta di nidino. Lenzi bagni, l'amore di compagni, non sta di nini. Lassimi sappi e zoppi, sai che tu mi zoppi, lassimi sappi e zoppi. Tiriti su uninine, con tu lenzi bagni, l'amore di compagni, non sta di nini. Non sta di dirò, non sta di dirò. Nell'antica villotta nata dal popolo, Montagnutis Ribasaisi, il sentimento della nostalgia è espresso con un'invocazione intensa e pura. O montagne, abbassatevi e fate un po' di luce perché io possa vedere ancora una volta dove andavo a fare all'amore. Thank you.